credo che il problema maggiore per quanto riguarda i produttori di elettricità sia il cosiddetto rischio regolatorio, che nel nostro paese è assai più elevato che altrove, cioè il rischio, diciamo, di non avere una legislazione stabile nei confronti di una operazione come appunto quella dell'energia, della produzione di energia elettronucleare. Io che mi sto sempre convincendo di più, pur essendo, non essendo un antinuclearista di principio, che in Italia, nel nostro paese, il nucleare non si farà più, anche perché diciamo, è anche, adesso si è aggiunto anche a parte i motivi di opportunità che c'erano per andare in un'altra direzione, si aggiunge anche, diciamo, il vento generale che spira all'estero, anche il G20, il G8, l'altro giorno ha parlato dell'opzione nucleare, il Giappone pure ha sostenuto di voler incrementare significativamente le rinnovabili e rivedere interamente il proprio piano energetico. Per quanto riguarda il decreto sulle rinnovabili, vorrei solo ricordare che nel 2008 il governo Berlusconi ha ereditato il famoso pacchetto europeo con gli obiettivi vincolanti su riduzione delle emissioni e aumento delle rinnovabili, e lo fece contestando i numeri della Commissione europea circa i costi che questi tipi di provvedimenti avrebbero avuto per l'Italia. Quindi scarso entusiasmo allora e scarsa convinzione che secondo me si è andata manifestando anche in tutta questa vicenda per il decreto delle rinnovabili. Adesso speriamo che si sia capito che è opportuno avere anche qui una certezza diciamo di insieme del quadro regolatorio, perché altrimenti il business ne risente.